Letture di Radio 24. Forte del suo slogan anticavaliere «Non sono una donna a sua disposizione», Rosy Bindi si sentiva ormai portavoce del nuovo movimento per la dignità delle donne. Ma con la loro contestazione, le femministe le hanno fatto capire che non sono a sua disposizione. Chi di Rosy ferisce, di Rosa perisce. È vero. Sabato 9 luglio il Movimento delle Donne ha contestato a Siena anche Livia Turco e Flavia Perina. Però a bruciare di più sono i fischi riservati a Rosy Bindi. Ma come? Proprio nella sua Siena? E proprio a lei, che ormai si viveva come icona di quel movimento per la dignità delle donne, nato il 13 febbraio a Roma con la manifestazione anti-CAV sull'onda del caso Ruby? Quel giorno la deputata PD e vicepresidente della Camera era raggiante e fiera, in mezzo a un tripudio di magliette con stampata la sua effigie e la celebre frase «Non sono una donna a sua disposizione» rivolta a Silvio Berlusconi. Bindi, secondo i maligni, proprio allora avrebbe incominciato ad annusare il profumo di una sua candidatura a premier del centro-sinistra. Seguirono la proposta di Nichi Vendola e la benedizione di Romano Prodi, un bel periodo Rosy shocking. Ma c'è tra i suoi detrattori nello stesso PD chi sostiene che quel disegno fosse più nella testa che nei fatti. E così, proprio a Siena, la sua marcia trionfale nell'universo rosa, sulle ali dell'anti-berlusconismo, si è bruscamente interrotta. Più che di Ruby e del Cavaliere, le neofemministe riunite dal web hanno parlato di lavoro, di figli, di quote. Non hanno risparmiato strali neppure a un sindaco amico come quello di Napoli, Luigi De Magistris. Figuriamoci a chi come lei ha esordito da presidente del PD? Roba da vecchia politica! È stato il commento tra le neo-sessantottine della Rete Rosa e non Rete Rosy. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paola Sacchi, Donna fischiata, mezzo avvisata, da Panorama del 20 luglio. Letture di Radio 24. Di fronte alla crisi, Barack Obama invita ciascuno a prendersi le proprie responsabilità, ben sapendo che non è possibile chiedere sacrifici ai più poveri se prima non si tagliano i privilegi dei politici. Ma un semplice confronto di cifre permette di stabilire che molti dei nostri governatori regionali guadagnano più di quanto guadagnino i loro colleghi statunitensi, e senza tenere conto dei rimborsi e di tutte le altre integrazioni. Barack Obama, che come presidente americano guadagna lordo 34.416 euro l'anno meno del presidente provinciale di Bolzano, Luis Durnwalder, dice di non avere dubbi. Dobbiamo chiedere alle persone più fortunate, come me, alle società che possiedono i jet, ai petrolieri, ai miliardari, di condividere i sacrifici. Mettiamo, per pura ipotesi, che si dimezzasse lo stipendio da 400 a 200.000 euro. Quanto ci guadagnerebbero i suoi connazionali? Poco o niente. Quel taglio rappresenterebbe molto meno di una briciola rispetto ai 14.500 miliardi di dollari di buco. Ma Obama, mentre invita ciascuno a prendersi le sue responsabilità rinunciando alle proprie vacche sacre, sa che non può chiedere un solo centesimo ai concittadini più poveri se prima non taglia i costi e i privilegi della politica. E parliamo di vacche più magre delle nostre. Qualche esempio? Stando al sito ufficiale dei consigli regionali, lo stipendio netto di un consigliere molisano, tra indennità e rimborsi, arriva a 10.255 euro, quello di un consigliere segretario pugliese a 11.461, quello di un semplice deputato sardo a 11.417, quello del presidente della Giunta del Veneto a 12.615, del suo collega calabrese a 13.353. Vale a dire che ognuno di questi, come spiega una tabella sulle indennità nel 2011, ricostruita da Antonio Merlo della University of Pennsylvania, prende più di quanto guadagna al lordo il più pagato dei governatori americani, che è quello dello stato di New York, che prende 10.612 euro al mese, dai quali, ovvio, vanno tolte le tasse e tutto il resto. Di più, ogni governatore statunitense ha in busta paga mediamente 93.450 euro, 7.787 al mese. Lorde, la metà di quanto prende al netto il presidente della regione Sicilia. E non parliamo degli ultimi. Il governatore del Maine, il più sottopagato, porta a casa al mese 4.150 euro lordi, molto meno del più sottopagato, si fa per dire, dei nostri governatori, cioè quello dell'Umbria, 7.101 netti. Quanto alle più alte cariche degli Stati Uniti, il presidente della Camera prende ogni mese 13.327 euro lordi, un'indennità inferiore, tolte le tasse e il resto, a quanto prende, 10.972 netti, un consigliere regionale della Campania. Un parlamentare statunitense, Camera o Senato, riceve 10.315 euro lordi, 1.389 meno del trattamento mensile lordo dei nostri deputati, i quali incassano sotto questa voce 11.704 euro mensili, 3.000 più dei secondi in classifica, gli austriaci, 4.000 abbondanti più dei terzi, gli olandesi, 5.000 più dei francesi, per non dire degli spagnoli, pagati un quarto, nonostante il sorpasso in termini di PIL pro capite. E a quel trattamento lordo vanno aggiunti i rimborsi vari, rimborsi di tale peso che quando il comunista Gennaro Migliore, 4 anni fa, fece un gesto di trasparenza, mostrando la sua prima busta paga da parlamentare, il netto reale era di 14.500 euro. Conosciamo l'obiezione. Cosa c'entrano i rimborsi? C'entrano. E lo prova la ripetuta ostilità a una riforma vera del trattamento dei cosiddetti portaborse, che ad ogni legislatura dovrebbero essere messi in regola, e poi non lo sono, se non in parte. La soluzione sarebbe lì, sotto gli occhi. Basterebbe che il parlamentare segnalasse alle Camere il proprio collaboratore, lasciando che siano queste a pagarlo. Ma che? Percorso a ostacoli. Molto più comodo incassare i soldi e poi girarne all'assistente, magari in nero, solo una parte, a volte miserabile, accompagnata da una promessa. Un giorno tirerò dentro anche te. Un altro esempio di integrazione? Proprio alla vigilia della manovra lacrime e sangue, mentre il braccio destro di Tremonti, Marco Milanese, si compiaceva per le vacanze al Plaza e le Ferrari Scaglietti o lo yacht rivenduto per una somma doppia a quanto guadagna un presidente americano in tutto il suo mandato, il consigliere radicale Giuseppe Rosso di Vita denunciava che alla regione Lazio, stando alla dichiarazione dei redditi, solo una trentina dei suoi colleghi dichiara di possedere una macchina. Gli altri, anche chi risulta proprietario di decine di appartamenti intestati, no, nessuna vettura. Curioso. Praticamente tutti, infatti, incassano ogni mese sontuosi rimborsi, dichiarando di raggiungere il consiglio con l'auto propria. Per avere i rimborsi, infatti, come ha raccontato sulle pagine romane di Repubblica Carlo Picozza, non servono pezze d'appoggio che certifichino gli spostamenti. Risultato, basta dichiarare di aver compiuto, per arrivare in via della Pisana, tot chilometri. E la regione paga 35 centesimi al chilometro. Il tutto sulla parola, senza scontrini, come per il caffè o il pedaggio autostradale. Manco a dirlo, c'è chi dopo l'elezione trova conveniente spostare la residenza o il domicilio il più lontano possibile. Tanto, chi controlla? Non bastassero stipendio e rimborsi nella regione della capitale d'Italia, a dispetto del bilancio in profondo rosso sul versante sanitario, tra i più allarmanti del paese, c'è un'integrazione dovuta alle presenze nelle commissioni, che ormai sono il triplo dei 7 colli, per l'esattezza 20, più o meno il doppio di quelle di altre regioni. C'è di tutto, dalla vigilanza sul pluralismo dell'informazione ai giochi olimpici 2020 e grandi eventi. Una manna, allo stipendio da consigliere, il presidente commissario ne cumula altri 1.000, 700 i vice. C'è di più. Segretari e portaborse, che possono essere ingaggiati fino a un numero di 5, auto e autisti al seguito, benefit, arredi e impianti per le nuove sedi. La conseguenza la potete immaginare. Con 71 consiglieri, la Regione Lazio ha 81 poltrone supplementari. E potremo andare avanti per ore, raccontando dei 74 gruppi monoconsigliari sparsi un po' in tutte le regioni, del boom delle consulenze in Sicilia, dove sono stati arruolati chitarristi ed esperti di rane, dell'accumularsi nella stessa isola di commissari straordinari, a volte ex dirigenti regionali, che avevano appena ottenuto la pensione baby grazie alla legge 104, dichiarando di dover assistere un vecchio padre o un parente disabile, ma immediatamente in grado di essere ripresi nel ruolo di commissari. Un punto è certo, gli altri, stavolta, si aspettano da noi una prova di serietà, e va data. Prima, però, occorre tagliare qui, e tagli veri, stavolta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella «Se il Molise paga meglio dello Stato di New York» dal Corriere della Sera del 13 luglio. 2050 saremo 9 miliardi. Se il pianeta Terra è sovrappopolato, di chi è la colpa? Della crescita incontrollata in Cina, India o nei paesi arabi? Nemmeno per sogno. Per i verdi inglesi, la responsabilità è di David Beckham, che ha osato mettere al mondo 4 figli. Convinti di essere il nuovo immacolato presepe della modernità, David e Victoria Beckham hanno pubblicato su internet la foto del loro 4° figlio e prima femmina, Harper Seven, cullata dal tenero padre. Un'immagine da mulino bianco, da contrapporre alla diffusa e deprecabile abitudine dei fenomeni del calcio britannico di umiliare le mogli lasciandosi andare con la prima escort che passa. Lussuria non finalizzata alla procreazione. I Beckham no. Siamo o non siamo la famiglia perfetta? Li hanno travolti di contumelie. Siete una vergogna, non capite che il pianeta è sovrappopolato? Stupore. La parlamentare verde Carolina Lucas, lo scienziato David Attenborough e il direttore esecutivo di Optimum Population Trust, Simon Ross, hanno chiarito che non stavano scherzando per niente. Nel 2050 saremo 9 miliardi. Per sfamare tutti servirebbero 3 pianeti, altro che figli. I Beckham e quelli come loro sono un pessimo esempio. In Inghilterra è esploso il dibattito. L'incompreso governo cinese ha mandato un sentito biglietto di ringraziamento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Malaguti, Troppi 4 figli, i verdi contro Beckham, dalla Stampa del 18 luglio. BACA, AS, QAR. Sono alcuni degli acronimi inventati da Maria Laura Rodotà per indicare le tipologie di colleghi d'ufficio. Siete femmine? Siete lavoratrici? Magari non siete minorenni? Allora spesso, ogni vostro comportamento non impeccabile, o anche impeccabile, diranno che siete ossessive, sarà criticato e motivato con il vostro sesso e, in caso, con la vostra età. C'è poco da fare, non c'è da deprimersi. I nostri colleghi e coetanei maschi non sono da meno. Va tenuta presente la vasta gamma dei loro disturbi comportamentali per non sentirsi strane. C'è il BACA, bastonatore ansioso del can che affoga. Nervosamente servile coi capi e isterico coi sottoposti, combina continui guai umani e professionali. C'è il CAR, quasi anziano rancoroso. Non saluta ostentatamente alcuni colleghi, più spesso colleghe, le donne devono creargli più problemi, causa passati dissensi e antichi rancori. È parente stretto dell'AS, asociale selettivo. Di aspetto simile a un abate faria con la cravatta, è nemico degli scambi verbali con quasi tutti e dell'igiene personale. A suo modo più simpatico è l'MMBB. Egomaniaco, megalomane, bulimico, buffo. Parla solo di sé, chiede di sé, pretende tutto per sé, va in pezzi se non viene gratificato non stop. Triste ma irritante è l'Eb, l'ex bello, che non si rassegna. Capelli tinti, tocchi da dandy circa 1982, sfila per l'ufficio come fosse Inès de la Fressange, fa capricci come Naomi Campbell, ma ricorda, a volte, Emilio Fede. E poi ce ne sono altri, insomma, tiriamoci su. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Laura Rodotà? Il collega d'ufficio? Lui sì che è un BACA. Da Io Donna, del 16 luglio.